con Marta Nuti per parlare di Ugo volume 10. A Roma al Monk, venerdì 8 febbraio 2019. Marta, ben trovata. Ciao, buongiorno. Ugo. Ugo, dacci la tua definizione di Ugo, come chiedo a tutte. Tu già lo sai cos'è Ugo, no? Certo. Object, o quello che è. Ugo è una rassegna di comicità femminile, ma forse neanche soltanto comicità, rassegna femminile, anche se ci ride molto. Siamo sempre, una volta al mese si fa il Monk, ogni volta siamo tipo una decina di attrici e ognuno ha un monologhetto di 7-8 minuti. Ogni serata è sempre diversa dall'altra, quindi se lo vieni a vedere l'8 febbraio e poi lo vieni a vedere a marzo è un altro spettacolo, è sempre uno spettacolo diverso, perché ogni volta, dunque, diciamo, c'è uno zoccolo duro di 5-6 attrici che ci sono sempre, che sono le organizzatrici e il politburo di Ugo. Poi ce ne sono altre che invece ruotano, io sono una di quelle che ruota, e ogni volta sono pezzi nuovi o quasi sempre nuovi, quindi sono spessissimo scritti per l'occasione. Okay. Quindi è anche un modo per vedere un po' che cosa c'è di nuovo a livello di drammaturgia, al femminile, perché anche le scrittrici sono tutte donne, tutti donne. Sì. Tu cosa apprezzi di questa formula? Beh, è divertentissimo da attrice fare... Vabbè, intanto la collocazione, perché è divertentissimo, perché è una cosa che assomiglia tanto alla stand-up comedy, che per me è una cosa nuova, perché io faccio attrice normale, sai, di quelle normali che hanno fatto all'Accademia, cioè proprio normale, faccio il teatro. E quindi è una roba che all'inizio fa paurissima, perché tu sei lì 10 minuti di fronte a un sacco di gente e devi fare il monologo comico, che è una cosa che io non ho mai fatto prima. Infatti la prima volta l'ho fatto al liceo perché avevo paura, e invece la seconda volta, che è stata la volta scorsa, invece l'ho fatto a memoria ed è andato benissimo, ed è un momento di esaltazione perché ti dici: Madonna, lo so fare, che bello! E poi è bellissimo anche stare a contatto con queste nuove ragazze che scrivono, mettersi insieme a lavorare. L'altra volta ho lavorato proprio insieme a Elisa Sponelli, abbiamo lavorato insieme e il pezzo si adatta all'attrice, quindi tu hai la possibilità proprio di star lì a parlare con l'autrice e dire: senti, ma questa cosa che vi aggiungiamo, questa cosa togliamo, questo, questa la cambiamo. Ed è tutto sempre un work in progress, no? E alla fine il pezzo risulta essere una coproduzione, sempre che si fa insieme. Questo io non sono abituata a farlo, perché con Shakespeare non puoi parlare tanto, no? E dirgli che questa magari la cambio. E quindi questo è anche molto creativo e molto bello, e sarebbe bello che un giorno anch'io riuscissi a prendere la penna in mano e scrivere qualcosa, che è un talento che non ho, però magari a forza di frequentare gente che scrive magari poi ci riesco, non sì, so. Sì. Senti Marta, la serata di venerdì come sarà? Quante sarete? Raccontaci un po' se ci saranno anche momenti musicali. La serata di venerdì non sono preparatissima, perché credo anche che non sia completamente fatta. Okay. Sicuramente ci saranno le fondatrici, quindi sicuramente ci sarà Cristina Pellegrino, Cristiana Vaccaro, Annalisa Diazzi Cordone, insomma le solite. Non mi ricordo se c'è la musica stavolta o se invece mi sembra che la musica l'abbiano messa a marzo, al prossimo. Okay. Ti posso dire invece con più cognizione di causa cosa farò io? Io farò un pezzo molto divertente, al Legio, ma non perché ho paura, ma perché è un pezzo conferenziere, diciamo, sui ruoli della donna nel cinema italiano. Okay. Immaginati, fa molto ridere, perché appunto parla di questi ruoli, sono sempre quelli, pochi, sempre quelli, quattro, e finisce sempre che queste attrici italiane poi sono tutto costrette a fare sempre la stessa cosa, perché alla fine c'è questa cosa per cui la donna può essere soltanto o così o così o così, non si vede, perché altrimenti poi non vieni più e non ridi più. Senti, allora, come riferimenti, come maggiori dettagli, internet, c'è la pagina Facebook di Ugo? Assolutamente, dove c'è scritto tutto, appena il cast sarà completo, perché ancora credo che ci stiano un po' ragionando sopra, viene pubblicato tutto sulla pagina Facebook di Ugo, u.g.o. e lì c'è scritto tutto. Venerdì prossimo, 8 febbraio, ore 21 trattabili, mi raccomando, al Monk, che è tra mattina di via di Cortonaccio. Mi raccomando, fate la tessera ACI prima su internet, sul sito dell'ACI, perché altrimenti dovete fare un'ora di fila e basta. Un saluto e un ringraziamento a Marta Nuti, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao, ciao, ciao.